io sono andato materialmente in via del Corso nel momento più topico degli scontri e le scene le abbiamo viste tutti anche attraverso i media. Non è bello che una legittima protesta studentesca, una più ampia protesta politica sia poi strumentalizzata da qualche centinaio di violenti di professione che si organizzano, utilizzano momenti difficili, le mozioni di sfiducia discusse dentro il Parlamento, una riforma dell'università di cui gran parte dei protestatari non conoscono neanche i passaggi essenziali, altrimenti non la contesterebbero con tanta virulenza per mettere a ferro e fuoco una città. Io approfitto della circostanza, perché non è mai sufficiente, per esprimere il massimo della gratitudine a tutti coloro che hanno difeso la nostra sicurezza, la sicurezza delle istituzioni in un momento così delicato, e lo hanno fatto col massimo della professionalità, perché non è facile. Io in quasi 8 anni di presenza al Viminale ho imparato poche cose, tra queste che la gestione dell'ordine pubblico è quell'aspetto della sicurezza quotidiana che è più difficile in assoluto. Dopo tutti sono bravi a dire come si doveva fare, quale vie si dovevano intercludere, quali si dovevano permettere. È prima che è complicato, è durante, quando c'è, come è capitato ieri a un finanziere, di vedersi addosso 20 energumeni che tentavano di strappargli l'arma, è lì che bisogna dimostrare il massimo della professionalità ed evitare reazioni che possono degenerare e far andare alla memoria episodi del E passato. infatti era proprio quello che volevo chiederle in conclusione. L'immagine, quell'immagine sicuramente fa molto, mette anche un po' di inquietudine, cioè un finanziere che è stato costretto a impugnare l'arma d'ordinanza con la mano sul grilletto. Ecco, lei vedendo quell'immagine che considerazione fa? Ma dico che dobbiamo tutti passarci la mano sulla coscienza, nel senso che nessuno vuole negare gli spazi e ancor meno la legittimità della protesta, ma c'è una linea di confine invalicabile tra la protesta e la violenza, soprattutto la violenza organizzata, la violenza che individua degli obiettivi nei tutori dell'ordine e magari tenta di isolarli rispetto agli altri e cerca volutamente l'incidente, anche l'incidente grave, per poi scatenare ulteriori violenze. Su questo la compattezza deve essere massima e, se possibile, deve anche evitare di moltiplicare le occasioni per scatenare queste violenze.